E da poco sono passate le ore 21, inizia prove tecniche di trasmissione, naturalmente su Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e su www.ondarossa.info. Appuntamento che andrà avanti sino alle 22.30 e ritengo che anche per questa sera sia l'ultimo spazio musicale. Vado a salutare Tabula Rasa a Cortina d'Ampezzo, Enrico Panico Brusati di Panico da Palcoscenico, Doriana Panico a Taranto, un saluto a Boston a Des De Carlo, Cordis Cinque Serpente con Giovanni Lisi, un grosso abbraccio a lui. Un saluto a Marcio Gronge, a Laura Spirit Crusher, Tiziano Zero Farinacci di Pig Greco, Maya che ci sta ascoltando in Umbria. Cecilia Miradoli di Pindar. Un saluto a Consuelo, al medico della peste. Salutiamo l'ironia di Venusia Zozzetta Stramonio, Anna qui a Roma. E poi Like Week, storica ambient romana, un saluto a Noise Cluster con Flavio Derbecante e Arianna Degni Lombardo. E poi Francesco Cornello, Marco Mascia di Progetto Sonoro, Jean-Claude Bertot in Val d'Aosta, un saluto anche a Barbara, ad Alessandra Mentana e insomma, quindi siamo già numerosi qui intorno a ciò che ci andremo ad ascoltare ed apprezzare, spero, cominciando da Michael Bonaventure, artista scozzese che nasce come organista per poi sviluppare questa sua passione e perizia nell'ambito della musica più d'avanguardia. La sua ultima fatica si chiama Works 2018-2023 e questa sera ci andiamo ad ascoltare Giant Glass Green. Una Roma impazzita dal traffico ci ha fatto arrivare un po', come dire, trafelati qui in radio, e quindi ci voleva un momento di astrazione totale come questo di Michael Bonaventure, con le sue partiture di organo assai solenni, contaminate, unite alla sperimentazione, come ormai fa da moltissimi anni, compreso questo Works, i lavori che vanno dal 2018 al 2023. Intanto saluto Wurnus Island, l'industrial piemontese, Margherita Montoneri, Giuseppe Verticchio. Mi auguro che Marcio Gronge si sia sintonizzato. Mi auguro che lo streaming funzioni per tutti quanti. Cominciamo la nostra carrellata anche nella musica italiana, e lo facciamo con Ernesto Panico Brusati, che ultimamente ha fatto uscire un nuovo lavoro, un diciamo quattro tracce dal nome Nel Mai, la consueta carica visionaria, unita anche a momenti di estremo post rock. Però questa sera ci andiamo prima ad ascoltare una traccia da nome Milena e un'altra Scorpion Mezcal, la prima diciamo tra virgolette più intimista, Milena in realtà è una ragazza conosciuta dal nostro Ernesto, Bricconcello, che la colpì a tal punto da scriverci una canzone. Questo è scritto chiaramente nel profilo Bandcamp, e quindi ci andiamo ad ascoltare questi due passaggi per Ernesto Panico Brusati. lasciarmi qui, non lasciarmi solo, non lasciarmi qui, non lasciarmi solo, non lasciarmi qui. E fino alla fine ci siamo ascoltati anche questa seconda traccia dedicata a Panico da palcoscenico, Scorpion Mezcal. Dagli umori direi assai vicini a certe movenze di Nars Witwoud, anticipate invece dalla, come ho già detto, più intimista Milena. Vorrei leggere due parole proprio estratte dal profilo Bandcamp di Ernesto. Nel mai è un album all'insegna dell'impedimento, a partire dal titolo. Già, perché altro non è che l'anagramma di Milena di cui sopra. Senza ulteriori sviluppi narrativi, e così è tutto l'album, situazioni dilatate, attimi rubati al tempo, quando si è dimostrato clemente, senza tutti quegli elementi di disturbo che da un anno a questa parte stanno pesantemente condizionando la mia vita. Ma l'impedimento non è solo questo, è anche e soprattutto la consapevolezza dei propri limiti. In questi quattro brani ci sono quattro accenni di quello che sarebbe potuto essere, ma che per un motivo o per un altro sono diventati il dilatarsi di una possibilità. Questo scritto sotto Nel Mai, nella pagina Bandcamp di Ernesto Brusati da Varese. Intanto il buon Marcio Gronge ci rende edotti sul fatto che il 21 ottobre in duo con Marco Olivieri ci sarà Duo Politropo a Bitonto, Circolo Arci Resilienza, quindi Duo Politropo. Mentre il 28, in via Scarpanto, alla Casa del Popolo, ci sarà la piccola orchestra Zvug, un lavoro che ci siamo gustati qualche tempo fa con un primo live. Poi nel tempo ci darà altre informazioni più attente e precise, anche pubblicamente, se vuole. Intanto saluto Giulia Vesena qui a Roma, Maria D'Agostini e Gianluca Becuzzi, Massimo a Torino. E per quanto riguarda altri live, sabato prossimo ci sarà una interessante serata qui a Roma con Noise Cluster, dei quali ci ascolteremo qualcosa più avanti, Olympian Gossip e un DJ set del sottoscritto, quindi il tutto sarà all'insegna dell'elettronica, dell'industrial, della sperimentazione. Sabato prossimo, fanfulla, per una volta lo diciamo. Allora, Gianluca Becuzzi lo abbiamo salutato e lo andiamo adesso anche ad ascoltare. Quest'anno è stato particolarmente prolifico per lui. Ha fatto uscire la ristampa di We Can Be Everywhere, è già uscito nel 2014, ma è stato allargato in maniera opportuna con l'aggiunta di quattro tracce. E poi c'è l'ottimo Black Mantra, molto più tribale, e sempre un po' sulla vena del doom metal e l'industrial. Quest'ultimo, insieme alla consueta oscurità, sono anche parti decisive in questo We Can Be Everywhere, dal quale ci ascoltiamo Souls at Zero Density e Salem. umbratile cavernoso, ma anche telaio industrial che sostiene e porta avanti la ritmica di queste due tracce estratte da We Can Be Everywhere di Gianluca Bicuzzi. Quasi dei toni da Einsturzende e Neubauten in questi due brani. In Souls at Zero Density e Salem. Ci terrà compagnia per molto tempo e poi cominceremo anche ad ascoltare Black Mantra, quindi ci sarà un Gianluca Bicuzzi quasi permanente in prove tecniche di trasmissione nei prossimi mesi, ma credo ne valga la pena. Sempre Italia, andiamo a Firenze da Antonio Zoviet alias Omicidio. La scuola di Marco Corbelli ha generato tanti musicisti che hanno tentato di seguire, nel caso di Omicidio in maniera eccellente, le orme dello sfortunato Atrax Morghe. Frequenze di morte, anche questo lavoro uscito nell'aprile di quest'anno, e ci ascoltiamo la frequenza numero 5 e quella numero 3, però con voce. epilepsy is a symptom of nervous system dysfunction. It is frequently accompanied by, but is not the cause of, mental deficiency. Epilepsy is characterized by recurrent attacks of loss of consciousness, usually accompanied by convulsions. This girl illustrates petit mal epilepsy. Her sister, too, has petit mal epilepsy. Petit mal seizures are usually frequent, but rarely dramatic or injurious to the patient. They may occur only occasionally, or as often as several hundred times a day. As time goes on, however, petit mal seizures tend to become more severe and frequent, until they resemble grand mal attacks. Petit mal attacks are characterized by a momentary drooping of the head. It seldom lasts longer than 15 seconds, and the patient rarely falls. Here, a smaller girl is having a seizure. Probably a major seizure in the United States are afflicted with epilepsy, although only a small proportion are mentally defective. While epilepsy was one of the first disorders described in medical literature, only recently has real progress been made in understanding the condition. Again, the girl on the right has an attack. It is more pronounced this time. Now, she has another attack, during which she almost falls. Subject has several hundred petty mal seizures every day, occurring almost continuously. For the purpose of this demonstration, she is asked to breathe deeply. Abnormality is present, such as a congenital defect or an injury to the brain. Most cases that are properly diagnosed as epilepsy are of the idiopathic type. Predisposition to this disorder may be inherent. Attacks of many mal types follow one general pattern. During which there is a vacant stare and fluttering of the eyelids. If the patient is doing anything to get back to the nerves, there is a momentary cessation and a continuation of the action, often without the person being aware of the interruption. There is evidence to suggest that the normal physiological interchange of fluid and electrolytes in the brain cells may become disturbed, and that this is responsible for the interruption of the normal brain rhythm